Allora, la parola a Manco Michele. Si prepari Nonati Emilio. C'è Manco? Manco. Chi lo conosce? Manco di Torino. Allora Romandi, Emilio, si prepari Marucelli. Allora ricorda la carte. Tempo, metti il tempo. Pronti. Pronti via? Pronti via. Cerco di riassumere il tempo tiranno i contenuti della mozione finale del nostro congresso con qualche licenza poetica. Europa. Sabato l'altro si sono tenute a Roma, sul tema Europa, 5 distinte manifestazioni. Chi voleva più Europa, chi voleva meno Europa, chi voleva un'Europa diversa, chi non voleva nessuna Europa. 2 manifestazioni, una di sinistra e l'altra di destra. Noi sappiamo da che parte stare, basterebbero questi dati. Europa anni 50, contava il 20% della popolazione mondiale, produceva il 50% del PIL mondiale. Europa oggi conta l'8% della popolazione mondiale, produce il 20% del PIL mondiale. Europa domani, 2040, avrà il 5% della popolazione mondiale e l'8% del PIL mondiale. L'Italia oggi ha il 2,7%, scenderà allo 0,9%. Il 50% welfare mondiale oggi è in Europa. Se vogliamo evitare che l'Europa e quindi l'Italia vengano marginalizzate dai grandi processi economici e quindi salterebbe il nostro prezioso welfare, non ci resta che batterci per più Europa. Vanno bene i 10 punti della CIS. Siamo coscienti che come sindacato dobbiamo però fare di più. Non possiamo chiedere ai governi dei paesi dell'Unione Europea di rinunciare in parte alle sovranità, difesa, politiche fiscali, strategie industriali, per poter fare più Europa e non renderci noi disponibili come sindacati nazionali a perdere un po' di sovranità contrattuale per sperimentare prime concrete forme di negoziazione europea. Perché no un sussidio europeo per la disoccupazione? Perché no a consolidare un livello di welfare minimo per tutti i paesi? Perché no una lotta comune contro la finanza predatoria e speculativa che uccide l'economia reale e il lavoro, per rimedicare, per esempio, come facciamo inizio crisi, un'agenzia europea, visto che tutte sono nordamericane? Perché no sostenere il diritto al lavoro, uno sciopero anche simbolico, per esempio di un'ora, da tenersi lo stesso giorno in tutti i paesi d'Europa? È utopia? Questo, oltre a favorire il volto sociale dell'Europa, farebbe conoscere il sindacato europeo. Chiediamoci quanti nostri iscritti sanno cosa sia la CES o la FERPA. Pochissimi, e non per colpa loro. Il nostro paese, la crisi economica e sociale morde da un decennio. Ma mentre l'Italia arranca, gli altri paesi europei sono tornati a camminare. Qualcuno correre. Come crescita il nostro paese è il fanalino di coda insieme a Grecia, Spagna e Croazia. Ci chiediamo come può essere che l'Italia, che vanta il primato dei più forti sindacati confederali d'Europa, sia nel contempo il paese col triste primato della più alta disoccupazione e più alta povertà d'Europa. Non c'è più tempo da perdere, il lavoro è la vera emergenza del paese. Per difenderlo, crearne di nuovo, affrontare le opportunità, ma anche le minacce dell'industria 4.0, occorrono investimenti, strategie, politiche industriali, interventi in formazione, sviluppo e ricerca, strumenti che il nostro paese ancora non ha. Le organizzazioni sindacali devono rivendicare unitariamente, come abbiamo saputo fare con la piattaforma sulla previdenza, che ha consentito di arrivare dopo 8 anni totale blackout a un accordo dignitoso col governo e, come la CIS propone, un patto sociale nel paese con al centro il lavoro. Lo dobbiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti. Il lavoro è come il pane, dice qualcuno. Perché ce lo dice il Censis? Per la prima volta i figli sono più poveri dei padri. la generazione che viene per la prima volta meno di quella che l'ha preceduta. L'ascensore sociale funziona sì, ma questa volta scende. Dobbiamo agire per evitare che i figli che il lavoro ce l'hanno o faticano ad aver, non ce l'hanno, faticano ad averlo, si scaglino contro i padri che il lavoro ce l'hanno, per evitare che i nipoti che in pensione forse non andranno si scaglino contro i nonni che la pensione ce l'hanno. Dobbiamo creare lavoro per un'altra ragione: difendere le nostre pensioni. Il campanello d'allarme è suonato qualche giorno fa. Per la prima volta il bilancio dell'INPS ha evidenziato uno squilibrio tra entrate e uscite, tra contributi versati e prestazioni erogate. C'era da aspettarselo. Il nostro sistema previdenziale, funzione ripartizione, prevede che il lavoratore attivo paghi con i propri contributi i trattamenti di chi è in pensione. Qual è il problema? Che ai nostri tempi eravamo due lavoratori attivi a mantenere un pensionato, tra virgolette. Oggi il rapporto è 1,4 lavoratori attivi e un pensionato. Per evitare il rischio del default dell'INPS è indispensabile agire per rivendicare l'aumento alla base contributiva e quindi l'occupazione. Non c'è altra strada. Anche per queste ragioni va completata la seconda parte dell'accordo del settembre scorso col governo, soprattutto laddove prevede interventi sul sistema contributivo al fine di garantire ai giovani di oggi un trattamento pensionistico dignitoso e adeguato domani. Si calcola che un giovane che non per colpa sua fa lavori discontinui andrà in pensione a 78-79 anni con 30-35% del coefficiente di sostituzione, cioè del rapporto tra ultima retribuzione percepita e primo assegno pensionistico percepito, quindi un importo assolutamente non dignitoso e non adeguato. Per mettere in sicurezza il sistema previdenziale bisogna agire oggi e occorrono risorse, come occorrono risorse per difendere l'area 22. Mi mancano, ho fatto. Occorrono risorse per difendere il sistema sanitario, per difendere e creare lavoro. Noi, salto questa parte, noi siamo perché il fondo non autosufficienza, che come la sanità comporta che ci siano liste d'attesa. Tu hai l'anziano disabile con l'Alzheimer in casa, hai la lista di attesa perché qualcuno deve morire perché tu entri in graduatoria. E non si fanno le nozze con i fichi secchi, per la sanità, per l'assistenza, per la povertà. Bisogna trovare risorse che nel paese ci sono. La crisi ha triplicato il numero dei poveri da una parte, dall'altra però le 10 persone più ricche del nostro paese avevano a inizio crisi un reddito pari a 3 milioni di italiani, oggi hanno un reddito come quelli 6 milioni di italiani. L'indice Gini, che misura la distanza tra i livelli più alti e i livelli più bassi della ricchezza di un paese, dimostra che quello italiano si avvicina a quello americano, che è in assoluto tra i più scandalosi al mondo, che misura disuguaglianze tra i più poveri e i più ricchi. C'è un problema di redistribuzione, dobbiamo dirlo con chiarezza. Una tassa patrimoniale, come chiesto dalla CIS, a proposito, chiediamo con forza, non possono rimanere in un cassetto le 500.000 firme raccolte con grande passione e entusiasmo ad ammuffire in attesa che qualche forza politica si degni di farsene carico. Facciamo iniziative perché quelle buone idee trovino alleanze. Una tassa sui grandi patrimoni che vada da 100 euro a 500 euro all'anno per patrimoni che superano i 500.000 euro in su porterebbe per esempio a un'entrata di 9 miliardi di euro all'anno in più. Quanta assistenza, quanta sanità, quanto lavoro si potrebbero creare con questi importi? Buoni servizi fanno una buona CISL, servono risorse. I servizi si fanno, e qui condividiamo la scelta di portare sotto regia politica CAF, INAS a tutti i livelli, territoriale, regionale e nazionale. Troviamo saggia l'idea di questa specie di holding proposta dalla FNP nazionale. Risorse. I territori sono in sofferenza perché il tesseramento flette. Bisogna che quello annunciato a ogni congresso, più risorse in periferia, venga sostanziato, venga concretato. Noi chiediamo che la percentuale che oggi viene data alle regioni e al nazionale venga ridotta a favore dei territori dove si fa proselitismo, dove si fa la trincea. Non bisogna creare le opportunità per allargare la base dei nostri iscritti. Ci sono regioni che col 15%, e il Piemonte è tra queste regioni, che riescono a finanziare la formazione dei territori, i contributi di solidarietà, a finanziare anche altre attività. Perché allora non dare direttamente ai territori questi importi? Noi crediamo che il congresso debba dare una risposta concreta a questa opzione, che è un po' come l'araba fenice che da troppi anni gira, più risorse il territorio per sostanziarla. L'ultima cosa, e rimango nei tempi, tutti dicono che bisogna cambiare, ma cambiare devono essere sempre gli altri. Questo non ci appartiene. Noi stiamo cambiando, migliorando il nostro modo di lavorare, il nostro impegno, ma questo dentro la CIS lo devono fare tutti, a tutti i livelli. Noi abbiamo condiviso anche qui lo slogan "un nuovo rinascimento per il sindacato". È importante, è impegnativo, perché il rinascimento viene dopo il Medioevo. Vuol dire che noi ammettiamo che in CISL ci sono stati negli anni passati errori, limiti, strapoteri, spesso interessi personali e scarsa etica. Il Medioevo viene prima del Rinascimento. Allora, noi dobbiamo fare in modo che coerenza, passione e impegno contraddistinguano il nostro lavoro, ma il lavoro di tutti. La conclusione è questa, che una casa di vetro, la CIS deve essere finalmente una casa di vetro. Dopo i lunghi anni del pensiero unico, del pigro conformismo che hanno caratterizzato il recente passato, oggi lo diciamo tutti, la CIS deve essere un luogo di elaborazione, di confronto vero, con persone che non disdegnano la fatica e sentire l'odore delle pecore, dove vi sia la consapevolezza che l'organizzazione cresce di più con le critiche che non con le adulazioni, dove chi dissente non viene considerato un nemico da combattere, ma solo un amico che la pensa diversamente, dove si parli di meno, si pensi di più e si agisca di più. Questa è la CIS che noi vogliamo. Noi dobbiamo saper leggere e reggere i tempi non facili che ci stanno davanti. Noi dobbiamo rappresentare un punto di riferimento solido per il nostro paese di fronte all'indifferenza, al rinseramento e al disinteresse collettivo. C'è un detto che mi ha insegnato mio padre: sasso che rotola non mette muschio. Dobbiamo quindi restare attaccati con fermezza e coerenza alle scelte che faremo in questi giorni, ciò per non ridurre i nostri congressi a una semplice elencazione di buone intenzioni. Rimbocchiamoci le maniche, buona fatica. Grazie. Due minuti in più ad Emilio, perché era il primo e ha rotto il ghiaccio. Adesso saranno inflessibili.